un'erba nel deserto, una boa che galleggia in mare aperto. Quando cala la sera mi tristisco, ma quando il sole si abbassa io rinasco. Libertà di andare, libertà di amare, voglia di volare, voglia di capire, voglia di naufragare nei tuoi grandi occhi blu, voglia di scoprire come sei fatta tu. Amami se puoi.